io attribuisco alla politica che abbiamo fatto in questi ultimi anni il vantaggio, il merito di avere per un certo periodo di tempo, oggi di nuovo le cose sono in discussione, ma di avere dato una certezza, per esempio, sul piano della vita democratica delle istituzioni e delle libertà individuali e collettive, il che ha permesso di porre altri problemi, perché è sempre più arretrata una società dove non è risolto il problema elementare della vita democratica o il problema elementare della libertà individuale o collettiva, anche se in quella società ci possono essere degli elementi di maggior sviluppo economico. Questo vale per esempio per i paesi comunisti, però è sempre più arretrata rispetto allo sviluppo generale delle lotte civili, le quali partono sempre da un dato che deve essere un dato certo, la vita democratica garantita e le libertà individuali e collettive assicurate. E la vita democratica garantita ha voluto dire che le nuove manifestazioni di piazza, voglio dire, nessuno osa confessarselo, di 2 anni fa, di 3 anni fa, partivano con la sicurezza e la riserva mentale che finalmente la polizia non avrebbe più sparato. Questo ciclo è stato interrotto il 19 novembre a Milano con i fatti dell'Irico. Ma questo era importantissimo. Certo che. Cioè io mi metto dentro fra questi, sapevamo Ma di che. fatti, se tu ti riporti col pensiero, visto che non lo puoi fare come ricordo di esperienza personale, per fortuna non lo puoi fare, se tu ti riporti col pensiero appunto agli anni dei quali parlavamo precedentemente, cioè ai primi 15 anni del secolo, che cosa li caratterizzava? Ma l'episodio, non l'episodio del quale abbiamo parlato, dell'eccidio di Ancona. Ma ogni domenica aveva uno, due, tre eccidi. Lo stesso primo sciopero generale in Italia nel 1904 fu una risposta all'eccidio di Bugeru in Gerdo in Sardegna. Sardegna. E si può dire che quasi tutte le grandi manifestazioni operaie, socialiste, anarchiche allora il movimento anarchico aveva una influenza assai considerevole sulle masse, sono sempre partite dalla rivendicazione appunto del diritto alla vita, della libertà, eccetera. Ora, per esempio, abbiamo i cosiddetti scioperi selvaggi. Noi avemmo in quell'epoca lo sciopero del Cerino, per esempio, ecco, il grande fatto nuovo degli scioperi agrari dal 1908 fino al 10-11 fu rappresentato da questa tecnica nuova introdotta dai sindacalisti rivoluzionari, che bisogno c'è di stare un mese in sciopero, di scontrarsi con la polizia, di scontrarsi con i crumiri, si dà fuoco alle messi e ecco risolto il problema con l'agrario, o fuoco ai pagliai, o fuoco qualche rara volta a granai, insomma. Cioè sempre sorgono forme di lotta che esprimono magari anche delle aberrazioni dal punto di vista di una logica astratta, ma che corrispondono a una determinata situazione sociale e a una determinata esigenza di sviluppo del movimento progressista, insomma.